quindi diciamo vivo a Milano veramente da moltissimi anni. Ho un background in filosofia, dicevo, e condivido tra l'altro condivido questa cosa anche con molti altri colleghi che hanno lavorato in Vieffarini. Ho sempre avuto una grande passione per l'arte contemporanea e sono arrivato a lavorare nel non profit dopo aver lavorato un po' anche nelle gallerie e negli uffici stampa, quindi ho anche un background diciamo nel mondo profit che mi ha aiutato peraltro moltissimo a capire aspetti, no? del sistema dell'arte che magari altrimenti in questo mondo non si possono vedere, quindi l'ho sempre visto un po' come due lati della stessa medaglia. E quindi diciamo collaboro con Vieffarini da molti anni, però appunto sono arrivato per esperienze anche esterne all'arte contemporanea, a questo mondo. Diciamo che come mondo, diciamo come range di attività che sviluppo qui a Vieffarini, mi sono occupato fin dall'inizio proprio dello sviluppo del programma di residenza. Quindi residenze artistiche che sono delle occasioni di formazione, di studio per artisti che possono venire e avere uno studio a disposizione dove sì, mostrare, sì, insomma, fare e promuovere, mostrare, lavorare, soprattutto connettersi con la città, connettersi con i colleghi, connettersi con i curatori ovviamente, e a volte anche non necessariamente appunto dislocare, ecco, la propria ricerca, metterla un po' alla prova e guardarla da un altro punto di vista. Sicuramente il 2008 è stato un anno molto molto importante nella storia lunga di Vieffarini. Esatto, poi è iniziato, sì, in un anno che è stato diciamo un po' la svolta di tante, sì, cose, perché con il momento di crisi è proprio il, esatto, momento in cui magari anche proprio la giovane arte ha cominciato a risentire di più. Esatto, è stato un momento, l'arte spesso gli economisti dicono è anticiclica, no? Quindi riesce a intercettare prima di altri magari settori di produzione il cambiamento e a reagire. Sicuramente il 2008 è stato un momento di consolidamento delle attività di Vieffarini, perché abbiamo aperto la sede qui alla Fabbrica del Vapore, che è dove abbiamo la sede e dove abbiamo l'archivio, che è, come dicevate giustamente, un elemento fondamentale, quindi un archivio relazionale, un archivio fatto non tanto di carte e di, anche se ci sono moltissimi libri, moltissimi portfolio di artisti, ma soprattutto di relazioni con gli artisti, perché poi è un archivio vivo. Vieffarini è una comunità più che è un luogo di legittimazione, perché come tanti altri luoghi indipendenti che si trovano nelle città, sono luoghi dove tutti si possono sentire a proprio agio, dall'artista emergente appena uscito dall'accademia fino a curatori, artisti anche mid-career molto importanti, quindi un luogo di connessione più, lo fa in modo forse più empatico, della galleria, e poi è un luogo di legittimazione dove appunto tante storie si ritrovano, no? Quindi ho cominciato in quell'anno ed è stato un anno importante per me, ovviamente anche per la città. In quell'anno ricordo, do così un progetto di quell'anno molto importante, si chiamava Dynamic Table, fu una tavola dinamica alla quale parteciparono tantissimi galleristi, colleghi di spazi indipendenti, e si parlava proprio del cambiamento di Milano, perché Milano cominciava, magari la crisi nel 2008 non era ancora così esplicita, cominciava un cambiamento e gli spazi indipendenti cominciavano ad aprire, prima c'erano spazi però ne aprirono, ci fu una new wave diciamo di spazi indipendenti quell'anno. Esatto, ma Vieffarini invece è stata fondata molto prima, fondata, sì, da Patrizia Busarosco, giusto? È stata fondata da Patrizia Busarosco nel 1990. Il braccio destro e sinistro di Patrizia. Sì, sì, sì, sì, sì, collaboriamo da tanti anni e abbiamo poi, ho poi seguito tante vite, anche se comunque non lavoro ovviamente dall'inizio, però già dal 2008 molte cose sono cambiate ovviamente nel fare il mio lavoro. Via Farini l'ha fondata nel 91 con un'intuizione molto felice, che era quella di tradurre nella realtà, diciamo, italiana, perché l'Italia non è gli Stati Uniti e non è la Germania, però cercare di tradurre un po' gli arti space americani e le Kunstverein tedesche, studiandoli come modelli e cercando di tradurli nella realtà italiana. Bello momento in cui ce n'era tanto bisogno, fra l'altro. Sì, forse nel momento giusto, no? Poi ci vuole anche fortuna, intuizione in questo lavoro, nell'arte, ovviamente. Sì, diciamo che alla fine degli anni Ottanta era indubbio che c'era bisogno di un cambiamento, e sicuramente appunto Via Farini è stato parte di questo cambiamento, su questo non c'è dubbio. Sì, poi ovviamente non è nato nel nulla, ovviamente Milano in quegli anni era molto molto viva, la Brown Boveri, Lazzaro Palazzi, le esperienze anche di Artists and Space importantissime, e molti degli artisti poi che furono impegnati in quelle esperienze poi aiutarono il gruppo che Patrizia creò. È stato un progetto partecipato con gli artisti, gli Affarini. No, sì, e poi mi sembra anche che la città abbia reagito bene, nel senso che il comune comunque, se non vado errato, ha da subito dato man forte a un'iniziativa del genere, cosa che invece spessissimo, soprattutto appunto in Italia, non succede, no? Sì, c'è da dire questa cosa. Si creò a partire dal 95 in poi una serie di convenzionamenti di servizi, e questo ha rappresentato veramente un'esperienza straordinaria, perché cioè proprio fuori dall'ordinario tecnicamente, perché non era così facile far riconoscere dal comune che Via Farini e anche Kerov, che allora, col quale allora si collaborava appunto per questi servizi, che è un'altra organizzazione non profit che è ancora attiva ovviamente qui a Milano, organizzazioni del genere fornivano dei servizi per gli artisti, servizi di formazione, divisione portfolio, avere un curatore con il quale parlare, avere un luogo, no, per formarsi anche rispetto all'esperienza di residenza all'estero, informazioni, insomma, avere un complice. Esatto, ecco, avere anche qualcuno con cui relazionarsi, insomma. Esatto, con cui confrontarsi, con cui cominciare a capire come rapportarsi a quello che di fatto è un sistema, anche se è un sistema, diciamo, non formalizzato, non sempre con regole chiaramente esplicitate, però essendoci, ecco, penso che l'importanza di questi centri sia stata notevole nel dare un po' cose che magari in quegli anni nelle accademie, nelle istituzioni formative tradizionali mancavano, perché erano ancora legate un po' a delle pratiche diverse. Poi magari Stefano ci confermerà, ma io mi ricordo che proprio nell'occasione, forse nel 2008, di cui parlava fuori onda Stefano, che ci fu una serie di incontri con curatori emergenti, no? C'era un po' questo tentativo di far incontrare la domanda e l'offerta in quegli anni. C'era Milo Vanfarronato, che è stato è famoso per essere l'ultimo curatore del padiglione italiano alla Biennale, che era curatore di Via Farini, giusto, in quegli anni? Sì, assolutamente, certo. Si presentò al pubblico dicendo che lui era un po' come il curatore della mutua all'interno di Via Farini, l'equivalente del medico della mutua. Mi è piaciuta molto questa definizione autoironica, perché tutti andavano lì a far vedere il proprio portfolio come primo step, sì, curativo. Sì, certo, e Milovan ha interpretato in modo formidabile il suo ruolo in Via Farini, tra l'altro con una generosità notevole e anche un'ironia che lo caratterizza, che però secondo me quel suo intervento, che poi è stato ripreso anche nel libro che abbiamo pubblicato, Souvenir d'Italie per i 20 anni della storia di Via Farini, è un intervento molto importante, perché rende l'idea del tipo di servizio che Via Farini ha fatto, ma anche dell'importanza di dare voce, no? Di dare questo ascolto della scena indipendente. È una funzione importante che poi ogni curatore, anche Simone Frangi, al quale Milovan ha passato il testimone, tutti i curatori, ma anche prima di loro Gabi Scardi, Angela Vettese. Insomma, la storia di Via Farini è sia una storia di tanti artisti che sono passati, ma anche di tanti curatori, e tutti hanno interpretato questo ruolo in un modo diverso, arricchendo Via Farini, ma in generale la scena milanese, di sfaccettature ogni volta diverse. Sì, sì. Condivido peraltro questa intuizione di Milovan. Sì. Il curatore della muta è... No, vabbè, è un'idea di spirito di servizio, di generosità che mi piace pensare che Via Farini continui a esprimere. Poi ovviamente, certo, adesso la scena è molto più ricca rispetto agli anni 90, anche solo rispetto ai primi anni zero, quindi ci sono tantissimi spazi in Italia cioè forse non tantissimi, ma altri spazi in Italia che hanno che condividono questo approccio. Certo, noi abbiamo un archivio che ormai negli anni è così grande da permetterci di avere veramente il polso della scena italiana. Vedo le torri in città cadere e tutto ciò che rimane è cenere. Vedo le torri in città, vedo le torri in città. Ho parcheggiato e camminato, non sai quanto ma sai come dove. Scrivo il nome sopra fiumi di porpora. So soltanto che si sente questo silenzio incantevole. Sembra un'opera, riparto dalla dose di vita che do. Felini attratti dai confini che finiscono. Siamo l'oggetto più antico, più artistico, mistico e atipico. Più grande di quel buco in quel profilattico. Vedo dal fondo di questa bottiglia una via e so che le vostre morali hanno una doppia faccia. Ecco il Joker, testo croce. Come dormire col diavolo appeso alle corde, non c'è voce. Truccare i fantasmi, lasciare la polvere come le bambole. Ma dai, saprai dove trovarmi. Moriremo in tempo per essere ricordati anche qua giù all'inferno. Dal fondo del dirupo una sola voce che lasci libero un posto per me sulla croce. Sono erede delle idee, nato schiavo della vita. Disse il sogno dalla apnea, l'emotività finita. Resto qua, nonostante tutto, fermo qua. Dal fondo del dirupo sono somme tra parole, pure favole già scritte. Sono sole, luci tra le righe. Resto qua, nonostante tutto, fermo qua. Dal fondo del dirupo. Seconda stella a destra e poi fino al mattino. Questa testa sarà in giro, dorme con me come fossi il suo cuscino. Si offre quanto soffre, autodepressivo. Ti chiedi mai se è il momento nelle mani di Dio, giusto al centro, peccato che stava applaudendo. Sì. Ti chiedi mai se è il momento di non contare gli angeli, accantonarli ai diavoli ed appiccare un incendio. Era un esempio, un po' come noi e l'Eterno. Disse una nuvola ridendo il suo intento. Era un esempio, non lo capì la schiavitù e ne fece un tempio. E tutto torna di moda come un retro ed io al retro. Sguardo dentro, in fila ad un semaforo spento. 300 modi per morire, il peggio è morire vivendo. Mi vedo l'incubo nei cocci di vetro. Arretro imboccando nei sogni una strada senza divieto. Sono erede delle idee, nato schiavo della vita. Disse il sogno dall'apnea, l'emotività finita. Resto qua, nonostante tutto, fermo qua. Dal fondo del dirupo. Sono gemme tra parole, oppure favole già scritte. Sono sole, luci tra le righe. Resto qua, nonostante tutto, fermo qua. Dal fondo del dirupo. La mia ombra è fuggita col sole in questo viaggio senza destinazione. E poi mi accorgo che non sono il solo, attorno ad altri fantasmi a cui ha negato il volo. Questa canzone si intitola Dal fondo del dirupo, featuring Richard, di Alberto Despini, e viene dal suo nuovo album che è appena uscito, che si intitola Semplicemente. Trovate tutti i dettagli su www.albertodespini.com. Resto qua, nonostante tutto, fermo qua. Dal fondo del dirupo. Sono gemme tra parole, pure favole già scritte. Sono sole, luci tra le righe. Resto qua, nonostante tutto, fermo qua, dal fondo del dirupo. E io ti volevo chiedere che tipo di rapporti avete con le gallerie commerciali, che voglio dire, Milano è la capitale dell'arte contemporanea italiana, con il numero maggiore di gallerie, sì, eccetera. Mi chiedevo appunto che tipo di rapporto avete con i galleristi, con il mercato, diciamo. Allora, abbiamo un rapporto di conoscenza reciproca, perché chiaramente adesso abbiamo dedicato peraltro lo stesso... lo stesso Milovan fece un progetto molto bello, la fioritura del bambù, che coinvolgeva era il 2010, non vorrei sbagliare, 2009-2010, con quelle che allora erano gallerie emergenti, invitandole a rappresentarsi attraverso il lavoro di un artista e poi dando voce a entrambi. Al di là di questo, diciamo che c'è una conoscenza reciproca, un ascolto reciproco, non c'è una collaborazione diretta, forse perché facciamo lavori diversi, però se devo pensare a cosa è Via Farini oggi, quindi tornando un po' anche a quella che è la funzione adesso di Via Farini, è quella di essere un po' un incubatore, no? Quindi non più un luogo dove si espone, ma un luogo dove si lavora, è un luogo dove si creano connessioni. Quindi il programma di residenza è molto importante, e in questa logica comunque noi invitiamo sempre i galleristi a venire a visitare il lavoro degli artisti, e quindi facciamo quella funzione di talent scouting che è una residenza artistica indipendente, sottolineo, deve fare, ecco, senza affiliazioni, aprendosi anche a tecniche diverse, ad artisti. Come funziona il programma di residenza? Il programma di residenza è organizzato attorno a 3 cicli di circa 4 mesi ciascuno. Il programma di residenza, a partire dal 2008, è stato avviato anche con Milovan, con il programma Memories and Encounters. Era un po' diverso, era più indirizzato verso gli artisti stranieri. Poi dal 2012, quando un po' ho cominciato a gestire più direttamente il programma di residenza, abbiamo deciso di aprire agli artisti italiani, e quindi ospitiamo sia artisti italiani che artisti internazionali, e quindi contribuiamo un po' a far scoprire la città agli artisti stranieri, e ovviamente ad offrire agli artisti italiani anche delle ricerche che vengono da contesti altri. Esatto, è anche un luogo di incontro e di conoscenza tra gli artisti, perché sono abbastanza dei momenti festosi queste residenze, che durano mediamente quanto, 3-6 mesi? Sì, allora durano, adesso il modello per gli artisti italiani è moduli di 4 mesi ciascuno, eventualmente poi estendibile sulla base del progetto, perché poi ogni progetto ha bisogno di una sua... e ogni artista ha bisogno di un suo orizzonte temporale. Per gli artisti stranieri, chiaramente anche per problemi di visa, a volte il periodo è un po' più breve, minimo un mese, però, perché altrimenti non si riesce a creare quel tipo di connessione, che è un programma di studi condivisi, questo è importante da dire, non sono studi individuali, non è tipo il monaco nella sua cella, ma è un'esperienza condivisa in questi spazi, sia la Fabbrica del Vapore, che è la sede dell'archivio, che in via Farini 35, che è la sede storica, che è una vecchia tipografia, un cortile alla milanese, quindi con un'idea anche di vita e di lavoro assieme, che è poi un valore aggiunto, perché poter vivere e lavorare nello stesso luogo, sopra gli studi ci sono degli appartamenti, quindi c'è questa possibilità di creare una comunità, non un senso di comunità, un senso di appartenenza, che... Bello, bellissimo. E in questo periodo invece è un po' più, diciamo così, come vi siete riorganizzati nella situazione lockdown, quando vi ha colto di sorpresa come tutti, che cosa è successo nelle residenze? Certo, è stata una sfida molto importante. Noi in quel momento di marzo avevamo anche degli ospiti internazionali dal Sudafrica, da diversi paesi, e quindi è stato un momento di sospensione prezioso anche come occasione per ripensare anche il modello delle residenze. Abbiamo cercato di mantenere un approccio resiliente, e continuando comunque a a seguire anche dalla distanza le ricerche per quello che era possibile, e non appena poi c'è stato possibile a maggio diciamo riaprire in modo formale, anche se poi in realtà in modo informale, avendo la possibilità di vivere e lavorare nello stesso luogo, alcuni artisti hanno potuto proseguire proprio perché non uscivano di casa di fatto, proseguire a lavorare, abbiamo subito voluto organizzare degli appuntamenti anche in presenza, ovviamente tenendo conto di tutte le caratteristiche che dovevano avere, quindi con tutti i distanziamenti del caso, però abbiamo comunque organizzato degli open studio e a ottobre, in quest'anno anomalo del 2020, abbiamo partecipato anche a Walking Studio, l'ex Studi Festival, che comunque è un'iniziativa molto importante perché è un programma coordinato di opening di studi sia di istituzioni come quello di Via Farini che proprio gli studi degli artisti, ed è molto importante poi tenere secondo me l'evento in presenza. Poi ovvio abbiamo potenziato tutti gli strumenti digitali. C'è stata una delle artiste, Vera Pravda, che ha creato Confini, che è stato un progetto online legato ovviamente un progetto sul confinamento, quindi sull'idea di confine, un Insta progetto che poi ha preso altre forme, e poi tra le cose diciamo che sono nate durante la residenza che vorrei citare c'è anche Endless Residency, un progetto che co-curo con Silvia Conta, ed è un osservatorio un po' indipendente, in partnership con Via Farini, però è un progetto interno ma anche esterno a Via Farini, di informazione sulla residenzialità oggi, cioè su come cambierà la residenzialità. Quindi l'idea questo è un bel punto di domanda, infatti, perché con le limitazioni agli spostamenti che ci sono adesso, è chiaro che diventa abbastanza difficile riuscire a programmare delle trasferte all'estero come era invece abitudine fare. Il nostro tempo sta per terminare, ahimè. Se c'è un'ultima cosa che ci vuoi raccontare, magari progetti futuri. Sì, ovviamente ci tengo a segnalare, oltre ad Endless Residency, anche tra gli altri progetti, un progetto con Edicola Radetzky, che è un luogo, diciamo una piccola edicola, quindi luoghi nella città, ed è un luogo per la città, un luogo diciamo che è un progetto che apre all'arte nello spazio pubblico, e trovo che sia molto importante per gli artisti riconcepire il proprio ruolo, ribadirlo in tempi come questi, perché per quanto difficili, penso che proprio l'arte possa, e la produzione indipendente possa dare belle indicazioni per il futuro, cioè forse può essere un'occasione veramente per riscoprire il ruolo dell'artista. Anch'io lo spero vivamente. Dalla galleria. No, anch'io lo spero vivamente, perché penso che anch'io penso che siamo in un momento di cambiamento e qualcosa, volente o nolente, nel rapporto tra arte e pubblico dovrà cambiare. Io ti ringrazio tantissimo, Giulio. Ahimè, abbiamo. Guarda che ritratto che ti ha fatto. Grazie, bellissimo. Così in diretta sono tutti abbastanza di questo livello casual. Diciamo. È bellissimo. E naturalmente indirizziamo tutti al vostro sito, che se non è cambiato è sempre viafarini.org. Giusto? Viafarini.org è stato anche rifatto recentemente per i nostri 30 anni, quindi trovate tante informazioni. Io vi ringrazio davvero. Grazie a te. Grazie Giulio e a presto. A presto, grazie ancora. Bene, e quindi abbiamo finalmente il programma di Art City. Abbiamo il programma di Art City, bentornati a Coxo Spaziale intanto. Sì, ovvero tenetevi pronti, amanti dell'arte contemporanea, perché non mi ricordo più le date, 7, 8, 9 maggio? 7, 8, 9 maggio 2021, udite, prende il via Art City Bologna con un sacchissimo di cose che erano rimaste totalmente in sospeso per via dei vari lockdown. Esatto, per chi non lo sapesse, Art City è praticamente una sorta di esposizione della città, dell'arte della città, durante Arte Fiera, in concomitanza con Arte Fiera. Arte Fiera non c'è stata quest'anno e Art City dunque si è spostata in maggio. Esatto, si è spostata in maggio, prende il via e occupa diversi luoghi istituzionali, storici e del contemporaneo della città, dove vari artisti sono invitati a proporre un percorso, un'opera, riflessioni, eccetera, eccetera. È un programma molto, molto ricco, quindi io rimanderei all'agenda del Comune di Bologna, magari lo ricordiamo sul blog per vedere nel dettaglio, penso che poi usciranno anche dei comunicati di approfondimento sui vari artisti. E, chi possiamo ricordare tra tanti? Perché c'è Andreotta, Calò, Matteo Nasini, Riccardo Baruzzi, Chiara Camoni, Margherita Morgantin, Sabrina Mezzacqua, Alessandro Pessoli. Adesso li sto leggendo tutti, mi sono incaponita. Esatto, mi metto in una brutta situazione perché se poi ne dimentico uno caso. No, infatti non dimentichiamo neanche Beatrice Favaretto, Michelangelo Pestoletto, Anna Maria Aimone, Felicity Mangan, Carola Bonfili. Allora riprendo sotto, c'è Norma Jean, Vincenzo Agnetti, esatto. Aldo Bernotti e poi sì, no, loro sono tutti fino ad Agnetti eravamo ad Art City Outsider, mentre invece ci sono le mostre istituzionali che sono appunto Aldo Giannotti e no, Gregor Schneider in realtà non è istituzionale, no, è un progetto speciale, è no, un progetto perché speciale. Art City è sempre stato un progetto speciale, diciamo che è il leader che guida, diciamo, tutta la manifestazione. Che quest'anno è stato affidato a Gregor Schneider, che è un artista tedesco, classe 1969, che secondo me è particolarmente adatto a commentare visivamente questo momento estremamente claustrofobico, perché non so se conosci l'opera di Gregor Schneider, Stefano. Ah, devo ammettere pubblicamente di non conoscerla, non la conosco. Allora, Gregor Schneider è noto per costruire delle installazioni estremamente claustrofobiche e disagianti, perché lui riproduce degli interni assolutamente, come dire, quotidiani, banali, anonimi. Ah, ma è quello che ha vinto la Biennale di Venezia? Io adesso sulla vincita, sai che non amo i concorsi a vincita, quindi non sono informatissima, ma è del tutto possibile, perché comunque è un artista, è uno dei principali artisti contemporanei, quindi varie cose le avrà vinte di sicuro. Allora penso che sia quello che ha rappresentato la Germania e vinto la Biennale qualche anno fa, ma c'era una fila così lunga che anche all'inaugurazione che io non sono riuscito a vederlo. Sì, perché le file si creano anche per il fatto che le sue installazioni devono essere visitate in solitudine, ma non solamente perché c'è il Covid adesso che dovremmo farlo comunque, ma proprio perché nascono così, perché in questa situazione di estraniamento assoluto in cui uno si perde all'interno di questo labirinto che sembra tutto uguale e quindi hai l'impressione di ripassare per gli stessi luoghi, ma poi in realtà ti rendi conto da piccoli dettagli che non è possibile, quindi c'è sempre un senso di smarrimento, di straniamento e anche di solitudine gelida. Questa serie di lavori si chiamano Hausur, quindi la fila si forma per forza, perché tu per frequentare un'installazione di Schneider ci metti, non so, quel quarto d'ora, 20 minuti, cioè sono tutti tuoi, quindi non entrano due persone contemporaneamente, e secondo me è adatto perché siamo stati tutti reclusi, ecco, andiamo ad attraversare lo spazio gelido della nostra reclusione uno alla volta, come nella realtà, diciamo. Ho capito, e dunque in realtà continuiamo a parlare di Art City perché siamo all'angolo della menzione, dunque così l'angolo della menzione. Hai mandato la sigletta? Ho mandato la sigletta, poi non si capisce perché oggi tu non la senta, ma va bene lo stesso. E dicevamo, invece, il gran master flash dell'istituzione invece sarà la personale di Aldo Giannotti nelle sale delle Ciminiere del Mambo. E vi preannuncio già che riuscirò ad intervistarlo, per cui avremo modo di parlarne prima dell'inaugurazione della sua mostra. Fantastico, e quindi Aldo Giannotti, speriamo appunto di riuscire a rientrare presto al Mambo. Noi adesso ridiventiamo arancioni e si segnala che riapre tutto tranne i musei, i cinema e i teatri. Esatto, esattamente, esatto. Per cui la faccenda rimane uguale, ma si spera appunto anche almeno per il 7 maggio Art City possa succedere, perché altrimenti sarebbe veramente un disastro. Altri mostre istituzionali sono Helen Dowling a Villa delle Rose. Esatto, Helen Dowling a Villa delle Rose. Villa delle Rose ospita questo programma di residenze, visto che abbiamo avuto nella prima parte Giulio Verago, parlavamo delle residenze di Via Farini. Vale la pena dire che comunque in città c'è questo spazio, chiaramente più istituzionale, con una vocazione diversa, che però insomma accoglie artisti da tutto il mondo. E per il prossimo biennio ci sarà Helen Dowling, e mi sembra, se non sbaglio, di qualcosa che vado a controllare. Ah no, io posso continuare la lista dei partecipanti negli spazi spazi istituzionali, ovvero Giorgio Morandi, che sta al Museo Morandi, e da lì direi che non lo sposta nessuno. Poi abbiamo Franco Vimercati, che invece ci sarà una mostra di questo fotografo importante a Casa Morandi. Maurizio Donzelli al Museo Civico Medievale. Flavio Favelli e Nanni Menetti alle collezioni comunali d'arte, Cappella Farnese e Bacheche Comunali, Dario Bellini alle collezioni comunali d'arte, Virginia Zanetti nelle sale espositive del secondo piano di Palazzo D'Accursio, Nino Migliori all'Arciginnasio e al Teatro Comunale di Bologna, Mimmo Paladino alla Biblioteca Sala Borsa, Giulia Marchi alla Biblioteca Georges Louis Borges, Giacomo Verde, che saluto, il mio collega dell'Accademia Albertina, che purtroppo è scomparso lo scorso anno, nella Cappella di Santa Maria dei Carcerati di Palazzo Renzo. Poi abbiamo Nicola Samorì a Palazzo Fava, Angelo Bellobono a Parco di Villa Ghigi e Simone Carraro presso il Parco del Cavaticcio. Quindi noi di Angelo Bellobono abbiamo parlato quest'estate in una puntata di cui ora non ricordo il nome, ma mi ricordo che in quella puntata avevamo un po' litigato, era una puntata litigarella. Io non mi ricordo mai niente, per cui ero andata a Villa Borghese a vedere questa mostra sulla collezione degli artisti, sugli artisti che collezionano altri artisti, ed era venuto fuori, Angelo Bellobono, non mi ricordo se era uno degli artisti o se era uno degli artisti collezionati, però tu dormivi e non mi rispondevi. Ah, ecco, quindi... fantastico. E invece per quel che riguarda Nicola Samorì a Palazzo Fava, io non dormivo perché ho già visto la mostra che ha aperto ieri e lo sono andato a trovare, e lui ci ha raccontato questo. Io sono qui con Nicola Samorì e all'interno della sua mostra, che non ha inaugurato perché, come sapete, è tutto chiuso, ma domani c'è la possibilità di partecipare alla visita guidata online, e anzi vi consiglio vivamente di farlo. Io, in maniera un po' privilegiata, ho visto la mostra dal vivo con anche la spiegazione di Nicola. Che cos'è questa? La tua prima antologica bolognese o la tua prima mostra antologica in assoluto? Ma è la prima antologica italiana, perché all'estero c'è già stata la possibilità di presentare trasversalmente il mio lavoro, almeno gli ultimi 15-20 anni di ricerca, sia in Asia che in Germania, ma di sicuro ad oggi è la più completa in assoluto, perché conta quasi 80 lavori che coprono 17 anni di attività e che mi hanno permesso di percorrere per la prima volta fisicamente, a ritroso in tutte le direzioni, quello che è stato il mio lavoro di pittore e di scultore, che ha preso le mosse poi non a caso proprio da Bologna. Tu hai fatto l'Accademia Bologna, infatti, e dunque sei tornato vincitore. No, non saprei dire se vincitore, senz'altro sono andato in un ambiente che ha una dimensione per certi aspetti familiare e formativa per le persone che ho frequentato viventi, ma soprattutto per quelle che viventi non lo erano più se non attraverso le opere, perché ero un frequentatore assiduo della Pinacoteca, della città, e cioè nel mio sangue sono entrate le immagini di Giuseppe Maria Crespi, di Guido Reni, di Guercino, di Simone Cantarini, dei Carracci, prima ancora che non tante altre esperienze più contemporanee. E dunque la mostra, che non ha, diciamo, è già aperta ma non è visitabile, sta su fino alla fine di giugno, sbaglio? Forse anche di più, luglio? No, a fine luglio, se non sarà ulteriormente prorogata, però è chiaro che tutto è in divenire. Al momento, come sai, si tratta quasi di ritrovi da carbonari, per cui siamo in uno o due al massimo, quindi posso dire che fino ad adesso è stata confezionata solo a mio uso e consumo, sostanzialmente. Però dico, non è stata inutile, perché mi ha permesso di capire qualche cosa del mio lavoro, del mio percorso, in particolare il fatto che non siamo di fronte ad una progressione. La mia aspettativa di essere cresciuto nel tempo è stata quasi completamente tradita, perché non è accaduto niente di significativo se non opere significative che segnano gli anni, ma non determinano nessuna crescita di carattere scientifico progressivo, come l'arte tutta. Credo che il mio percorso personale poi rispecchi quella che è la storia dell'arte. Qualcosa che è fatta di uomini primi, come diceva Longhi, ma non di un processo inarrestabile verso un miglioramento ipotetico che non c'è. Io ti ringrazio, Nicola, e sappiate che comunque ci sarà un approfondimento di questa mostra, perché appunto è una mostra che sta su per molto tempo, è una mostra da non mancare come appuntamento bolognese, e dunque aspettatevi quanto prima un'intervista un po' più corposa con lui. Grazie. Bene, grazie a voi. Spero che la mostra sia visitata dal vivo come la pittura domanda, perché è un corpo che va guardato in faccia, non in riproduzione, e non soltanto ascoltato, ovviamente. E naturalmente trovate i biglietti per domani nel sito genusbononiae.it, che si scrive genusbononiae.it, e che comunque trovate anche su coxospaziale.blogspot.com da domani. Prima di passare alla prossima menzione, però, volevo farvi ascoltare un po' di musica, ed eccola qua. Certo, perché altrimenti un po' ci manca qua, eh? Eh sì. See lightning strike, they say it won't come twice. I see tears roll down as they turn to cries. Hear you telling me not to feed my vices. I'm 100 miles from where I should be. I see children, they are locked up far from home. Dirty faces, nowhere left to roam. I see tired eyes that scream, what's done is done. We're 100 miles from where we should be. Oh, sweet. Questa era 100 Miles di Mackenzie Shivers e continuiamo con le nostre menzioni. Ogni mercoledì... Cos'altro succede? Cos'altro succede nel magico mondo del web, visto che nel mondo del fisico ancora non ci possiamo entrare? Nel magico mondo del web succede che ogni mercoledì sera alle 20:30, perché Luca Rossi è di una certa generazione, una volta i film si facevano alle 20:30, cioè era il programma era prima di prima serata della Rai. Esatto, adesso non si capisce perché siamo passati a diventare un'ora dopo. Comunque sul Facebook di Luca Rossi Lab noi abbiamo il fantastico, come si chiama, Master Artist, che è un contest, diciamo un format contest Luca Rossiano, l'ultima creazione di Luca Rossi, sempre sulle note pop, camp, trash che lo contraddistinguono, e dove si sfidano, non ricordo, 8 artisti, adesso sono diventati 6 mi sa, perché ad ogni puntata, come in ogni format che si rispetti, uno vince, uno viene escluso. Esatto. Quindi è un format che fa un po' il verso a una certa tradizione in stile Grande Fratello. Sì, io sono rimasta lì, non sono aggiornatissima su questa. No, però... sì, cioè, più che stile Grande Fratello, stile X Factor, dai. Ecco, stile X Factor, no, perché io poi mi sono scollegata e sono entrata in un mondo tutto mio, però mi ricordo che tu mi dicevi che la BBC questo tipo di cose le faceva già tipo 20 anni fa. Però... sì, diciamo che è da una decina d'anni che esiste questo, una cosa che adesso non mi ricordo più come si chiama, ma credo che si chiami Master Artist anche quella o qualcosa del genere, in cui appunto nello stesso modo ha a che fare col ritratto, per cui forse è una roba tipo Portrait, Master Portrait o una roba del genere. Praticamente in ogni puntata, alcune puntate le trovate su YouTube, c'è una giuria appunto che fanno dipingere i ritrattisti dal vivo, tutti splendidamente figurativi, e di solito hanno una persona famosa che viene a farsi fare il ritratto da questi partecipanti, e poi in ogni puntata eliminano qualcuno, per cui è abbastanza simile a quello che succede a Master allora, Artist, con una differenza fondamentale che Luca Rossi no, è perché erano i 20 anni fa che mi avevano lasciato un po', perché sarà una decina ma perché io sì, 10-20, sai, quando si arriva ad essere sopra la pianta dopo si va a pacchi di 10 per volta come fosse niente. La differenza fondamentale è che, secondo me, è incredibile che Master Artist di Luca Rossi è una cosa completamente casalinga, ma funziona ed è intrattenimento puro tanto quanto Master Artist sulla BBC, per cui, cioè, voglio dire, il fatto di riuscire a farlo praticamente gratuitamente è veramente lodevole da parte di Luca Rossi e anche del resto della giuria, perché ci sono Giacinto Di Pietrantonio, che è un importante curatore, per chi non lo sapesse, e l'altro è un collezionista, Marco Rosa, che è un collezionista. È un collezionista. E poi ci sono gli artisti, adesso documentati molto rapidamente perché io non ricordo tutti i nomi e rischierei di citarne solo 3-4 che mi sono un po' rimasti impressi, e che però devo dire con notevole coraggio si sono esposti e messi in gioco in questa situazione. Vi posso dire chi sono gli artisti ancora in gara, che sono Daniele Cabri, Chiara Calore, Elisa Cella, Antonio Guiotto, Max Oddone e Francesca Pasquali. Ecco, io non ricordo quali sono stati i nomi dei due che sono stati eliminati, però mi ricordo il loro lavoro e devo dire che a me sembrava, mi sono sembrate a me sembrano sempre ingiuste le esclusioni, mm-hmm. E anzi una delle principali critiche che devo muovere, anche se mi rendo conto che funziona sul piano spettacolare, è proprio questa, che secondo me bisognerebbe trovare un modo di attivare, catalizzare l'attenzione che non vada a parare per forza sull'esclusione. C'è un po' una tara umana questa, possiamo uscirne secondo te o non ce la facciamo? Secondo me non ce la facciamo. Poi vabbè, effettivamente questo è un gioco, per cui secondo me ci sta che alla fine ci sia un vincitore. Naturalmente, essendo tutto casalingo, adesso non mi ricordo di preciso, ma credo che non si vinca pressoché niente, insomma. Al contrario, no, di magari... C'è un elenco di premi, anche se non sono premi in denaro. Io mi ricordo che c'erano dei premi tipo pubblicità, menzione, su qui, là... Su Radio Città Fujiko. No, Radio Città Fujiko non è stata interpellata, okay. Questo è sicuramente un altro problema di questo Rossi. Format, mm-hmm. Però comunque ci sono altre cose sicuramente apprezzabili, ma è chiaro che è un modo per, come dire, per ragionare sul lavoro. È proprio per questo che mi domando, ma è possibile che noi che siamo artisti, che abbiamo immaginazione, dovremmo immaginare scenari diversi, non riusciamo a immaginare un qualche cosa per suscitare interesse che non vada nello stesso senso del Grande Fratello? Cioè, questo a me un po' dispiace, devo dire, non ne sono contenta a livello, come dire, come categoria artistica. Poi mi rendo conto che funziona benissimo anche su di me come spettatrice, quindi cioè, sono correa in questa cosa. Stavo guardando la pagina della prima puntata, ma non ci sono scritti correttamente chi erano gli artisti partecipanti, per cui i due eliminati se abbiamo dei minuti, guarda, per la mia vocazione al ripescaggio dei perdenti, che tu sai che è uno dei miei cavalli di battaglia. No, infatti posso, però... io e te andiamo d'accordo su questo, non c'è dubbio proprio. Forse perché ci identifichiamo un po' nella categoria, comunque. Ma siamo molto becchettiani io e te, bisogna fallire meglio, fallire ancora, no? No, però c'è un elemento secondo me che quello che comporta, per esempio, io mi ricordo che nella prima puntata venne scartato un artista perché aveva fatto un lavoro che aveva convinto tutti moltissimo, cioè aveva lasciato perché venivano dati questi, diciamo, un foglio e una penna e uno in 5 minuti, 10 minuti doveva fare un'opera, e lui aveva lasciato la penna sul foglio senza toccare niente. Poi ha fatto questa cosa effettivamente un po' ingenua, no? Di versare l'aura, una finta aura per impreziosire e così, e come idea di critica. E questo ha scatenato le ire dei giurati, un po', cioè giustamente anche perché diventava una cosa un po' ingenua volendo. Però secondo me, io ho il sospetto, ma non è dimostrabile, che se lui non avesse fatto questo gesto, non avrebbero notato anche la bellezza di quello che lui ha rovinato, non so come dire. Sì, no, infatti, esatto. Ecco. E su questo secondo me ci sarebbe da riflettere, anzi lancio proprio questo gancio a Luca Rossi. L'altra che è stata eliminata è stata un artista, poi giuro, mi guardo i nomi e poi mentre mandiamo la sigla finale li citiamo magari, mm-hmm. che aveva fatto dei frottage molto belli, ma non aveva aggiunto, come dire, un apparato concettuale. Però secondo me è meglio non aggiungere un apparato concettuale se deve diventare uno pseudo concetto per dare il contentino alla giuria, cioè un lavoro di disegno pulito per noi artisti deve avere la sua dignità, cioè se no cosa facciamo? Andiamo solo a fare la traduzione, esatto. E io così penna è una bacchetta magica, io sono un re, no? Io ti ho messo lo stacchetto finale della menzione perché abbiamo finito il nostro tempo, per cui io e te continueremo a dibattere, perché come saprete questa puntata è ancora registrata, proprio perché la zona arancione è nata da stamattina e noi non eravamo pronti per la zona arancione, però la nostra puntata è finita, per cui io e te continueremo a parlare di queste cose fino a lunedì prossimo alle 19, in cui potrete ascoltarci di nuovo, continuare a parlare di queste cose su Coxo Spaziale. Comunque noi ringraziamo i nostri teleradio ascoltatori che ci hanno seguito fino qui, e naturalmente non perdetevi la puntata di lunedì prossimo, sempre alle 19, sempre su Radio Città Fujiko. Io stavolta ero Chiara Verde, vero? No, questa volta tu eri chiara blu, perché con Fedra abbiamo cambiato 4-5 colori proprio così per... Ok, allora io ero chiara blu. E io ero Stefano W. Pasquini. Che è sempre lo stesso. Questa era Coxo Spaziale, grazie per averci ascoltato, ci risentiamo lunedì prossimo. Yeah. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. A volte penso perché sono solo io, solo io. Fisso l'anticamera del cranio e mi incazzo. E dico perché solo io, perché solo io. Guardo le mie mani e penso a cosa avrò fatto io. Farlo, tanto sei l'unico che sa di che cosa parlo, ehi. Stupido istinto animale, un'arma che non sa adoperare. Ho abusato di te ma non mi dici nulla. Abbiamo trovato i nomi più degli artisti mancanti al che sono stati eliminati al programma di Luca Rossi. Sono l'artista dell'aura, chiamiamolo così, è Alberto S. E l'artista dei frottage è Eva Reguzzoni. Ecco, io devo dire che dopo aver visto l'eliminazione di Eva Reguzzoni sono andata a seguirla su Instagram. Per cui se voi partecipate al talent di Luca Rossi rischiate di avere più follower su Instagram, soprattutto se vi eliminano. Soprattutto se vi eliminano, esatto, ma perché come sempre, come da tradizione, nell'arte vince chi perde, giusto? Fallire meglio, fallire di più, fallire più spesso, fallire tutti. Esatto, fallire tutti, esatto. Fallire tutti, ci stiamo riuscendo comunque. Ciao. Ciao. Amici ricchi sfondati, che sono poveri in culo, non ho malapena una pensione, però hanno un futuro. Le pensa che non so che vuole solo i soldi. Mi prende per un braccio e mi promette l'oltre, ma...